Ciao Radio Risacca, ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornate, bentornati alla nostra quarta puntata del grande ritorno di Cemento e Curcuma e oggi vi parlerò in particolare di una pianta molto molto molto conosciuta, quale il vischio, tadà, detto anche Viscum album, ok? Ed è, la conoscerete molto per la tradizione di baciarvi sotto al vischio, ma non solo questo. E adesso scopriamo insieme quali sono le sue virtù, diciamo, ok? Allora, questa pianta principalmente fa da parassita, ok? A tutti gli alberi, principalmente cresce sotto forma globosa sulla pianta su cui dimora. Le foglie sono sempre verdi, simili al cuoio, e di colore giallo-verdastro. Ok? Possiede una bacca biancastra e traslucida, internamente vischiosa ed appiccicaticcia. E mi raccomando, attenzione che questa bacca è molto tossica se ingerita, e, tranne per gli uccelli che come stiamo vedendo, infatti sono i primi distributori di semi, strofinando il becco sul ramo oppure spellendoli direttamente dagli escrementi. E questo sapete, è l'unico modo possibile per la propagazione di questa pianta, tanto più che il seme non germina né in acqua né in terra. Quindi, grazie ai nostri amici uccelli, questa pianta ha il potere di crescere. Scopriamo anche dei cenni storici, come abbiamo trovato, questa pianta veniva già usata nella medicina e nella magia. È una pianta piena di misteri, era sacra ai druidi. Per chi non sa che cosa sono i druidi, sono sacerdoti celti, i quali la ritenevano un medicinale contro qualsiasi male, ok? E appunto gli antichi medici erboristi la usavano come ottimo rimedio e di effetto sicuro contro l'epilessia. Ma questa è solo una delle grandi, diciamo, delle grandi doti che può avere questa pianta. Ok? Adesso vediamo quali sono principalmente le parti da usare. Ok? Se ne raccolgono principalmente le foglie e i piccoli rametti che tramite l'essiccazione prima vengono tagliuzzati e la possiamo raccogliere dai primi d'ottobre fino a metà dicembre, ma anche nei mesi di marzo ed aprile. Ricordiamo che durante il resto dell'anno, come abbiamo detto prima, questa è una pianta perenne e durante il resto dell'anno il vischio è privo di potere curativo, ok? E la potete trovare principalmente su querce, su pioppi, abeti, pino silvestre e soprattutto alberi da frutto quali il melo, per esempio. E un altro consiglio per la raccolta che vi posso lasciare è che nei mesi di marzo e aprile il vischio non possiede quasi bacche, perché come dicevamo prima, grazie ai nostri amici uccelli, le mangeranno tutte. Ed è ottimo perché, come abbiamo detto, le bacche di questa pianta sono fortemente tossiche. Ok? E scopriamo insieme adesso i suoi rimedi. Contro quale tipo di malattia la possiamo usare, soprattutto? E come abbiamo visto, possiede un'ottima influenza sulla funzione ghiandolare e si dimostra un ottimo, eccellente mezzo metabolico, ok? E contemporaneamente ha anche una grande influenza sul pancreas, da far sì che il diabete, curato a lungo con la tisana, questa è una pianta strettamente la possiamo usare in tisana, la possiamo bere quando vogliamo, e come dicevamo, grande influenza sul pancreas e far sì che riesce a curare il diabete. E bevendo a lungo questa tisana perde riusciamo a curarci dal diabete, riusciamo a essere liberi da questa cosa, soprattutto persone sofferenti di malattie metaboliche croniche dovrebbero provarla, io ve la consiglio tantissimo. In questa pianta scopriamo anche che è un ottimo rimedio contro l'arteriosclerosi e anche contro l'ictus. Questa pianta principalmente la possiamo usare, come abbiamo detto, in tisana e trova impiego anche come emostatico. Che significa emostatico? Che comunque blocca le emorragie. E c'è un piccolo metodo, per esempio, quando abbiamo delle emorragie dal naso che possiamo usare risucchiando attraverso il naso la tisana fredda, essa è efficace nelle emorragie nasali e, per esempio, ingerita lo è nelle emorragie polmonari o in quelle intestinali, per esempio durante la dissenteria, può capitare. Penso che sia una pianta fantastica e che tutti noi dovremmo approfittarne. Poi il bischio, per esempio, può essere considerato il miglior rimedio per il cuore e la circolazione sanguigna, ok? E per esempio nelle gravi disfunzioni circolatorie può anche trovare aiuto, poiché contiene una delle sostanze attive che normalizzano il metabolismo dell'intero organismo, per esempio, e è in grado di ridurre la pressione sanguigna troppo elevata ed è in grado di aumentarla invece se è troppo bassa. Quindi, a seconda del vostro cuore o secondo della vostra pressione sanguigna, questa pianta può darvi tutto il beneficio che voi cercate. Ok? Per esempio la possiamo trovare anche nella cura di vertigini, ronzine alle orecchie e disturbi alla vista. Molto importante. Consiglio una tisana di vischio almeno 2-3 tazze al giorno. E per esempio anche nota super importante che le nostre donnine dovrebbero tener conto e servirsi della tisana di vischio le può aiutare a normalizzare i disturbi uterini e mestruali, soprattutto le forti emorragie mestruali, nonché anche le emorragie dopo parto. E, per esempio, ne dovrebbero bere per alcuni anni, specialmente le donne che sono nella fase di disturbi della menopausa. E si renderanno conto che disturbi della menopausa, per esempio, accompagnati da palpitazioni, tachicardia, vampate, senso di angoscia e soffocamento, si renderanno conto che tutta questa serie di disturbi col tempo spariranno fino a che non sentirete più questi effetti tremendi. E invece una nota molto importante che abbiamo scoperto è che ultimamente il vischio viene accompagnato o anche impiegato in medicina come preparato preventivo e profilattico del cancro. Sì, cioè questa è una scoperta sensazionale. E comunque, come le esperienze dimostrano continuamente, l'effetto depurativo e terapeutico delle erbe medicinali è sempre vicino a noi, capito? Servitevi di questi rimedi per migliorare e sostenere completamente la vostra salute. Ragazze e ragazzi, scusate. Scopriamo adesso come preparare la nostra tisana di vischio, ok? Allora, per una buonissima tisana di vischio, ricordiamo che va preparata soltanto a freddo, quindi sarà una tisana fredda. Allora, per una notte lasciamo riposare un cucchiaio colmo di vischio in un quarto di litro d'acqua. Il giorno seguente riscaldiamo il tutto leggermente, ok? Quindi deve essere quasi tiepido, cioè più o meno tiepido, e poi lo filtriamo. e soprattutto avendo bisogno di una grande dose giornaliera, la tisana, questo è un consiglio che vi do, dovrebbe essere conservata in un thermos precedentemente scaldato con acqua calda o scaldato a bagnomaria ogni volta che serve, ok? Così potete usufruire di tutti i benefici più belli, ottimi, salutari che questa pianta vi può offrire. Va bene? Spero che vi è piaciuta. Adesso invece volevo lasciarvi la nostra ricettina di cosmesi della settimana. Ok? Questa settimana ci prepareremo un bel detergente al coriandolo, ginepro e zenzero. Sembra proprio interessante. Scopriamo come. Allora, preparazione. Cosa ci serve prima di tutto? Ingredienti per 250 grammi circa di detergente. Ci serviranno 200 grammi di farina di grano saraceno, 2 cucchiai di semi di coriandolo, 2 cucchiai di bacche di ginepro, 1 cucchiaio di zenzero in polvere. Ok? Preparazione. Polverizzate la farina e le spezie nel macinacaffè elettrico, oppure potete usare anche un mortaio, va bene? Mescolate la farina e le spezie e setacciate il tutto con il setaccio finissimo. Sappiamo tutti cos'è un setaccio. Ok? Conservare in barattolo chiuso e ricordiamo che questo detergente si conserva per più di 6 mesi a temperatura ambiente. Va bene? Invece adesso scopriamo come si usa soprattutto. Allora, versiamone un po' nel cavo della mano e strofinate la farina sulla pelle bagnata, viso compreso, formando una crema. Quindi ricapitoliamo, facciamo il nostro detergente, ci bagniamo la mano, ci bagniamo la faccia, scusate, ci bagniamo la faccia, la mettiamo un po' nel cavo della mano e poi ce la strofiniamo delicatamente sul nostro viso, ok? Fino a formare questa cremina. Se necessario aggiungete un po' d'acqua, ok? Poi massaggiate, massaggiate, massaggiate e sciacquate. Questo detergente è perfettamente delicato, ok? E vi lascia la pelle levigata e profumata. È anche un ottimo tonificante e dermopurificante e ha soprattutto un profumo fresco e resinoso adatto sia a lei che a lui. Quindi il top, penso, è proprio il cosmetico che fa per tutti. E per esempio, nota importante, aiuta anche a rallentare la ricrescita dei peli dopo la depilazione. Quindi questo penso che sia un consiglio per le signorine, sia un consiglio per i signorini, ok? Quindi io vi lascio, spero che questa puntata vi sia piaciuta. E siamo qui oggi sotto la pioggia, quindi non possiamo andare a raccogliere il nostro vischio, però potremmo farci il nostro detergente. E io vi saluto. Ed è tutto. Ciao Radio Risacca. Ciao belle, ciao belli. A presto.